alla ricerca di un tempo senza tempo. Vorrei avere più tempo per, vorrei che almeno per un po' si fermasse il mondo. Voci nella mia testa, ho perso il sonno, e cercarlo è controproducente. Incontro un po' di gente, parliamo dell'assopimento come mutamento profondo della mente nel mentre. Si addormenta il tipo che sta in fondo e non sente. Ritrova nei suoi sogni l'ansia del lavoro che ogni giorno lo stende. Deve respirare tutta l'aria del soffice, aspira colori, oggetti, persone, soffoca nel grigio. C'è chi ha un incubo ricorrente, chi invece vive in un incubo proprio perché non dorme per niente. Ma a volte l'uomo fugge dagli impegni del giorno, prolungando la notte, trovandosi ancora più stanco al loro ritorno. E la mattina fa fatica, si irrita a reintegrarsi nella veglia, scrollarsi di dosso la placenta onirica ed un sogno incompleto. Interrotto al culmine come un divieto del reale, immaginare fino in fondo il suo segreto. Neanche lo ricordi ma ne porti dietro l'eco che domina l'ego. Poi c'è chi rincorre il tramonto, vuole riempire l'orizzonte, idealizza il mondo come uno sfondo, ma non si arriva fino in fondo. È il concetto di fondo che è poco profondo. Non esisto, non insisto, anzi più di plurale. Non una somma di unità ma una diversità unificabile solo in modo parziale. Per questo studio i miei sogni e faccio piccole scoperte. Certe rischio di perdermi, ricordi a tane di termiti, mentre sull'asfalto può sangue di oli, di gomiti e poche forme di vita usate come soprammobili. Togliti, frutto sta visione dentro nella dimensione che è chiamata sonno, posta alla veglia eppure risveglio ogni visione. Tutti grandi artisti dei sogni, lasciando giocherellare la nostra mente coi bisogni. E nella veglia piccoli sogni fanno girare il mondo, ma un mondo terribile, incubo di un dio che ora dorme sordo ed il dramma. E che le nostre urla sono la sua ninna nanna.